La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 9 gennaio 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E alla ripresa dell'anno nuovo, quindi nella prima puntata del 2010, è anche l'ultima puntata del podcast dell'anno internazionale dell'astronomia, un podcast dedicato all'intera figura di Galileo che quest'anno è stato celebrato nel 400° anniversario dalle sue prime osservazioni attraverso il telescopio. Quest'ultima trasmissione annuale sarà divisa in due parti. Nella prima parte, in cui si parlerà di una mostra che in questo momento si sta svolgendo a Roma, intitolata Astri e Particelle, e nella seconda parte invece tireremo un po' le conclusioni di tutto l'anno. Nella prima parte quindi avremo il professor Roberto Battiston, docente di fisica generale presso l'Università di Perugia. Buongiorno professor Battiston. Buongiorno a voi. Professor Battiston, come a tutti i nostri ospiti, chiedo anche lei di essere conciso in 100 parole, quindi in 100 parole le chiedo di riassumere o di darmi una sua idea di che cos'è l'anno internazionale dell'astronomia. Beh, è un'occasione unica per raccontare al pubblico che cosa fanno gli scienziati per osservare l'universo, e scopriremo nel fare questo che l'astronomia, nel senso classico del termine, il telescopio Galileo, si è estesa in modo molto molto ampio, con telescopi con caratteristiche straordinariamente diverse, con dimensioni, strumenti e comunità che rispetto agli inizi sono molto più agguerrite e potenti dal punto di vista scientifico, e riescono a decodificare segnali assolutamente piccolissimi per capire come è fatto l'universo. Professor Battiston, ci lasciamo per un po' di minuti, andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi andremo a parlare proprio della mostra Astri e Particelle. Bentornati in studio, cari radioascoltatori, in questa puntata finale del podcast dell'anno internazionale dell'astronomia, in cui stiamo provando a tirare le conclusioni di un intero anno dedicato a Galileo Galilei. In collegamento telefonico abbiamo il professor Battiston, docente di fisica presso l'Università di Perugia, ma soprattutto curatore della mostra Aste e Particelle, che in questo momento si sta svolgendo presso il Palazzo delle Esposizioni a Roma. Professor Battiston, come è strutturata questa mostra e soprattutto per mano di chi è stata fatta questa mostra? Questa è un'iniziativa dei tre principali enti di ricerca che si occupano in Italia del settore della fisica delle particelle, della fisica dell'astronomia, dell'astrofisica e della fisica spaziale, che sono rispettivamente gli NFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che per molti delle persone è associata all'attività del CERN, al laboratorio di Gran Sasso e agli altri laboratori esistenti in Italia, all'INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, la cui attività è associata al telescopio delle Canarie, ai grandi telescopi dell'ESO in Cile e a alcuni strumenti importanti operanti nello spazio, e all'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, che appunto fra le attività che essa finanzia come agenzia, finanzia in particolare il settore spaziale degli strumenti che misurano nello spazio le particelle, i fotoni, la luce che viene dall'universo. Questi tre enti si sono messi d'accordo, cogliendo l'occasione dell'anno dell'astronomia, per fare una mostra in cui viene fatto il punto guardando al futuro, non guardando al passato. Questa è una mostra che dice cosa stiamo facendo oggi e come evolveremo in futuro, quali sono le tecnologie, gli strumenti, i nuovi modi con cui gli scienziati guardano l'universo e quali sono le domande a cui si incomincia a rispondere, vedremo che sono molte, e quali sono le domande ancora aperte e vedremo che sono la maggioranza, e da che parte appunto si sta evolvendo questo tipo di ricerca e qual è l'attuale visione che abbiamo oggi dell'insieme, dell'universo che ci circonda. Quindi lo scopo è tendenzialmente cercare di parlare dell'astronomia moderna anche a quella che comunemente viene definita come la casalinga di Voghera. Assolutamente sì. Il concetto di base è riportato anche nel sottotitolo, che è Astri e Particelle, il nome della mostra, il titolo della mostra, in cui si mette assieme appunto il concetto grande e piccolo, l'astro, il sole, la stella più o meno grande, il pianeta, addirittura la galassia, il buco nero, quindi un oggetto macroscopico, gigantesco, e la particella, che è quello che viene inviato, il frammento di quanti energia e di materia che questi astri ci inviano. Noi siamo abituati a pensare alla luce, ma entrando in questa mostra scopriremo che ci inviano tantissimi neutrini, ci inviano tantissimi raggi cosmici, ci inviano addirittura onde gravitazionali, ci inviano tante forme di luce invisibile, quindi tutto questo insieme di tipi di particelle rappresentano i messaggi che gli astri, che l'universo ci invia. La Terra è bagnata senza sosta da un flusso di queste particelle, di questa quantità di energia e di materia che viene da molto lontano. Gli scienziati, decodificando, analizzando, misurando questo continuo flusso di informazioni, traducono i messaggi che l'universo ci inviano in teorie, immagini, affermazioni, descrizioni dell'universo che ci circonda e della sua storia. Senta, proviamo a fare un esperimento, qualcosa che normalmente si riesce a fare solamente in televisione per via delle immagini, ma non si riesce a fare in radio. E facciamo finta che io sia un visitatore che sta entrando all'interno della mostra Astri e Particelle. Sto attraversando l'ingresso, che cosa mi trovo davanti? Allora, la mostra è fortemente immersiva. La prima grande sala, e sono in tutto le sale sono 4 con 5 punti di passaggio principali, si entra tra grande sala e si trova letteralmente immersi nello spazio profondo. L'ambiente è scuro, il pavimento è nero, davanti a noi c'è una gigantesca sfera che assume nel corso del tempo che passa le fattezze del Sole o di Marte o di Giove o della Luna, c'è proprio è una sfera su cui viene proiettata in rotazione un'immagine di alta fedeltà della stella o del pianeta di cui appunto vi ho detto prima. e quindi noi siamo, galleggiamo nello spazio, vediamo un grande pianeta, un grande astro, un grande sole di fronte a noi, vediamo sopra di noi dei satelliti e di fianco, nei vari punti in cui ci possiamo guardare, delle stazioni, gli exhibit che ci stanno raccontando delle cose. Quindi noi diventiamo in quell'istante una delle particelle che attraversano gli spazi cosmici andando da un astro all'altro per raggiungere, diciamo, la Terra nel caso particolare. E dopodiché incominciamo a seguire i principali exhibit. La prima cosa che si fa per incominciare, facciamo una doccia cosmica. Che cos'è la doccia cosmica? C'è una piccola struttura, una piccola box in cui entriamo e ci vediamo proiettati su uno schermo. Ma la cosa interessante è che assieme a noi sullo schermo vengono proiettate le particelle, i raggi cosmici che in quell'istante ci stanno attraversando. Qui vediamo il nostro corpo attraversato dai muoni cosmici che stanno in quell'istante passando in quel punto della mostra. Possiamo prendere una fotografia e possiamo addirittura mandare la fotografia di noi con i muoni cosmici via email a casa come ricordo della mostra. Ecco un primo esempio di come l'invisibile diventa visibile, diventa qualcosa di familiare. Noi siamo attraversati sempre da queste particelle, non ce ne rendiamo conto mai. In questa mostra la prima cosa che facciamo è renderci conto che l'universo, anche se non ce ne accorgiamo, ci sta bagnando dei suoi messaggeri, in questo caso i raggi cosmici. Senta professor Battiston, i nostri radioascoltatori sono ormai abituati a sentire argomenti come la materia oscura, la forza oscura, il bosone di Higgs, l'evoluzione dell'universo, il Big Bang, la teoria delle stringhe, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono molti argomenti nell'astronomia moderna che sono di stretta attualità. Ma se lei potesse decidere una di queste domande a cui vorrebbe dare una risposta, quale sarebbe? In realtà non posso non metterne assieme tre o quattro di domande, ma l'idea alla base di queste domande è molto semplice. Ci troviamo in questo momento in una situazione forse unica della storia della scienza, che riguarda appunto l'astronomia e l'astrofisica in particolare. Sappiamo di non sapere, ma sappiamo bene che cosa non sappiamo. Mi spiego meglio. Noi siamo riusciti negli ultimi 30 anni a capire con estrema precisione che la materia di cui siamo fatti, che sono i protoni, gli elettroni, gli atomi, la luce, contiamo anche i neutrini, contiamo le cose di cui sappiamo l'esistenza, abbiamo studiato, conosciamo le proprietà, le sommiamo tutte sull'intero universo e ci domandiamo: questa materia, questa energia di tipo noto, che frazione è del totale? Allora, prima domanda è: che cos'è il totale? Il totale lo sappiamo perché il nostro spazio-tempo, lo spazio-tempo del nostro universo è molto piatto. Abbiamo fatto delle misure particolari che riguardano il modo in cui le galassie si espandono e sappiamo che la metrica del nostro universo è praticamente piatta, su grandi scale naturalmente. Cosa vuol dire? Che ci deve essere la giusta quantità di materia e di energia per controbilanciare l'effetto dell'esplosione iniziale. Solamente una densità specifica di materia e energia si raggiunge quell'equilibrio che corrisponde a metrica piatta. Bene. Sommando tutto ciò che noi conosciamo della fisica contemporanea, arriviamo sino al 5%. Vuol dire che rimane un 95% di materia e energia di cui non sappiamo niente. Esperimenti fatti, diciamo, negli ultimi 10 anni, che analizzano in dettaglio quello che si chiama il fondo delle microonde dovute al Big Bang, il CMB, ci hanno convinto che questo 95% di massa di materia e energia sconosciuta si può suddividere a sua volta in due parti: il 23% circa di materia con caratteristiche nuove, chiamata materia oscura, e un 73%, 72% della somma delle fare 100, di energia di tipo oscuro, che in qualche modo pensiamo sia letteralmente contenuta nella struttura dello spazio-tempo, nel vuoto, è quella che probabilmente Einstein aveva introdotto come costante cosmologica, salvo poi campentirsi di averlo fatto nelle sue equazioni, dichiarando che addirittura la costante cosmologica era il più grande errore che lui aveva fatto nella sua vita di scienziato, per arrivare al paradosso di come stiamo parlando di cose che lo stesso Einstein non sapeva bene se ci dovevano stare oppure non nelle sue equazioni. Bene, conosciamo il 5%, ma sappiamo che è il 5%, che ci manca l'85%, e addirittura che lo stiamo suddividendo in due categorie, la materia oscura e la massa oscura. La terza domanda, che ulteriormente si aggiunge a queste due, che sono già delle domande importantissime, è che fine ha fatto l'antimateria. All'inizio del Big Bang noi immaginiamo una situazione diciamo caldissima, di energia altissima, in cui tutta la materia era presente nelle sue forme e quindi era presente materia e antimateria e si assume che fossero in parti uguali. Nei primissimi istanti del Big Bang si sono annichilite le particelle con le antiparticelle in un gigantesco lampo, che però ha avuto la caratteristica di annichilirle tutte tranne una parte per miliardo di materia che è sopravvissuta. La domanda è: che fine ha fatto una parte per miliardo corrispondente di antimateria? Non lo sappiamo, quello che è sicuro è che oggi viviamo in un pezzo di universo che è dominato dalla materia in modo sostanziale. Noi sappiamo produrre antimateria nei nostri acceleratori, sono frazioni infinitesime rispetto alla totalità della materia che ci circonda. Bene, perché la materia ha prevalso? Che fine ha fatto l'antimateria? Notate bene che questo non risponde alla domanda iniziale del 95% di materia e energia oscura, perché stiamo parlando del miliardesimo di residuo dopo il Big Bang, quindi dal punto di vista complessivo questa antimateria che ci manca non sposta l'equilibrio della somma complessiva di materia e energia di cui stiamo parlando, però è sicuramente un'altra questione perché l'universo ha deciso di essere tale da privilegiare la materia sull'antimateria. Quale forza, quale campo di forze ha la caratteristica di saper scegliere tra materia e antimateria? Non lo sappiamo. Professor Battistone, le voglio fare un'ultima domanda che è una specie di gioco. Facciamo finta di essere un po' dei viaggiatori del tempo e immaginiamoci di finire esattamente nell'anno 3000. Probabilmente nell'anno 3000 molte di queste domande avranno una loro risposta e probabilmente le risposte saranno molto diverse rispetto a quelle che ci aspettiamo oggi. Secondo lei l'avanzamento delle conoscenze scientifiche andrà di pari passo con l'avanzamento della cultura scientifica? Cerco di spiegarmi meglio. Più le conoscenze scientifiche diventeranno dettagliate, più sarà difficile comunicarle, o non è così? Ma diciamo, quella domanda è complessa. La complessità spesso ha a che vedere con la frontiera, con un momento in cui le cose non si capiscono, poi si capiscono, e diciamo un momento di transizione. Questa mostra la sfida che ci siamo dati, e credo che i risultati dimostrano che l'abbiamo vinta. Abbiamo già 85.000 visitatori, stiamo viaggiando verso i 120-130, che è una sorta di record per questo tipo di mostre, e data la durata e data le dimensioni, dimostrano che se uno usa le parole, i concetti e gli strumenti giusti per comunicare l'universo, e dimostra come noi siamo un pezzo di universo e siamo immersi in un universo vivo, il messaggio è potentissimo e la gente esce con delle idee, dei concetti, delle domande, della curiosità formidabilmente amplificata e eccitata, per cui il messaggio può essere reso molto semplice anche senza banalizzarlo, anche senza effetti speciali inutili, anche in modo rigoroso, e suscita e stuzzica la curiosità del pubblico in modo evidente, in modo verificabile. Professor Battistone, intanto la ringrazio per aver avuto la pazienza di rispondere alle nostre domande. Adesso ci andiamo ad ascoltare un pochino di musica, poi ritorneremo in studio e andremo a parlare direttamente col professor Franco Pacini, tirando un po' le conclusioni di un intero anno 2009-2010 dedicato proprio a Galileo Galilei. Grazie a voi, arrivederci. Turned around and waved goodbye, and now it's me alone. It's just an empty home. that's on an empty street, in a town that always sleeps, and a blind man in the darkness knows no difference. That you bring, I check the dial tone on the telephone, but when I try to speak, the reception gets so weak. I took an Bentornati in studio, cari radioascoltatori, in questa puntata, in quest'ultima puntata speciale di un'intera serie di puntate di Cacciafotone dedicate all'anno internazionale dell'astronomia, in cui stiamo provando a tirare le conclusioni di un intero anno. Nella prima parte della trasmissione abbiamo sentito la voce del professor Battiston, che ci ha parlato di una mostra che in questo momento si sta svolgendo a Roma, intitolata Astri e Particelle. Nella seconda parte della trasmissione, invece, avremo al telefono il professor Franco Pacini, ex direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, che nel 2000 era presidente dell'Unione Astronomica Internazionale. Buongiorno, professor Pacini. Buongiorno a lei. Professor Pacini, come già detto, lei nel 2000 era presidente dell'Unione Astronomica Internazionale e nel 2003, quindi 3 anni dopo, lei fece una proposta: dedicare un intero anno alla figura di Galileo, quindi un anno internazionale dell'astronomia. Tornando un attimo indietro nel tempo, come si svolse quella proposta? Ma è abbastanza semplice, in realtà già in passato l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite aveva proclamato alcuni anni speciali, anni di una disciplina. Se ricordo bene, nel 2000 era toccata la matematica, nel 2005 mi pare che sia stata la fisica attraverso la teoria della relatività e la figura di Einstein. E di questo mi si erano chiesti un pochettino che cosa fare, diciamo, nel 2009. Sarebbe ricorso il 400° anniversario della scoperta di Galileo. Quindi avevamo la data, lo scienziato, e feci questa proposta nel momento in cui stavo diventando presidente dell'Unione Astronomica Internazionale. Forse devo dire che cos'è l'Unione Astronomica Internazionale? È l'organizzazione che a livello mondiale coordina la ricerca astronomica. Non c'era mai stato un presidente astronomo collegato all'Italia, e quindi diciamo fu un grande onore che mi fece molto piacere, onestamente. L'Iter prevedeva l'intervento prima dell'UNESCO, poi appunto per l'Assemblea Generale, un'azione diplomatica verso i paesi, e così partì la grande avventura, che è durata circa 3 anni, e in questi 3 anni si sono svolte attività di tipo diverso. Per esempio, diciamo, si è intensificata molto l'attività scientifica su temi particolari dell'astronomia, si è intensificato il rapporto con il pubblico, e sinceramente è quello di collegare l'astronomia sia alla ricerca, sia di collegarla alla storia dell'astronomia. Ha anche detto, professor Pacini, che l'astronomia è una di quelle poche discipline che in realtà attraggono di più l'attenzione. L'astronomia, effettivamente, fra tutte le scienze, probabilmente quella che maggiormente gode il favore del pubblico. E certamente gode il favore dei bambini. Noi riceviamo all'osservatorio del CESI oltre 10.000 bambini all'anno. Se pensiamo a quella che era l'uomo primitivo, certamente l'astronomia dell'uomo primitivo è collegata a delle fortissime nozioni: il sole che scompare e ricompare dalla parte opposta. E alcune di queste cose tornano in mente anche in questi giorni, quando si legge sui giornali che nel 2012 avverrà una catastrofe cosmica. Semplicemente è diventata una scienza completa con stretti rapporti di altre scienze. E quindi, diciamo, qui è partita questa grande avventura, su cui non voglio dilungarmi oltre, e che è coinvolta appunto un centinaio di paesi. È stata molto, molto bella. Professor Pacini, tralasciando un attimo tutte le sventure che ci sono state propinate per mesi dalla stampa riguardo il 2012, in realtà in questi giorni, proprio oggi, si sta aprendo un convegno intitolato Beyond 2009, che è il convegno conclusivo dell'anno internazionale dell'astronomia. Ce ne vuole per un attimo parlare, perché in realtà questo convegno è un convegno a porte chiuse, in cui possono partecipare solo ed esclusivamente alcuni astronomi selezionati che provengono da tutto il mondo. Non può partecipare il pubblico. No, e diciamo, e quello che c'è è un rassegno, essenzialmente, nei vari settori, sia relativi alla strumentazione astronomica, sia relativi ai progetti futuri. Siamo andati avanti fino ai primi 400 anni, adesso cominciano, possiamo dire scherzando, i secondi 400 anni, perché l'astronomia avrà certamente in futuro degli sviluppi importanti, tanto quelli del passato. Si allarga l'astronomia, perché non si parla più semplicemente di astronomia con la luce visibile, si parla di astronomia con le onde radio, si parla di immagini ottenute dello spazio o con telescopi collegati a 4-5 mila metri di altezza. Evidentemente oggi c'è un forte interesse per alcuni aspetti dell'astronomia, ma di quelli a cui si riferiva stamattina Battiston, relativi alla esistenza o meno di materia invisibile. L'astronomo non vuole più semplicemente scoprire un nuovo asteroide, non vuole semplicemente scoprire una nuova cometa, ma si pone domande come nascono le stelle e i pianeti, la nascita delle galassie, la nascita dell'universo nel suo insieme. Abbiamo capito molte cose, ma tante altre ne restano da capire. Del resto sarebbe molto brutto se adesso, terminati 400 anni, si mettesse a scoprire delle cose. E certo, professore, citando un famoso astrofisico, sarebbe noioso essere Dio e non aver nient'altro da scoprire. Ma effettivamente, se volessimo dare una anticipazione di questo convegno, effettivamente all'interno di questo convegno di che cosa si parlerà? Di tanti tipi di strumentazione. Si parlerà, diciamo, delle ultime scoperte, ma si parlerà anche di storia delle scoperte passate, perché la storia della scienza è importante anch'essa. In Italia purtroppo ha preso un po' troppo il sopravvento, forse per la coincidenza galileiana, l'aspetto celebrazioni galileiane, l'aspetto celebrazioni storiche. Io personalmente avrei visto volentieri molto più planetari creati in varie città, anziché la storia di quello che è successo in passato. Ed è bene da questo, senz'altro, che l'Italia non dimentichi la storia, dalla quale tratto una certa quantità di gloria. Mi permetto poi di dare una piccola anticipazione, perché in questi giorni in realtà a Padova è presente il telescopio galileiano, o almeno un rifacimento di quel telescopio galileiano col quale Galileo Galilei guardò per la prima volta il cielo stellato. Beh, diciamo, il telescopio attuale, diciamo, è comunque una copia del telescopio originale, però è una copia che è stata analizzata a fondo anche per capire quanto di più Galileo avrebbe potuto fare, e c'è stata una interessante ricostruzione dello strumento nei suoi difetti e nei suoi pregi. Ed è molto interessante, diciamo, vedere come Galileo, per esempio, potesse osservare gli anelli di Saturno. In realtà non ne ero tanto convinto nemmeno lui, perché diceva: Saturno, diciamo, sembra avere delle orecchie. Sì, come lo segnalava Galilei, in realtà Saturno altro non era che il pianeta con le auricole. Ecco, professor Pacini, siamo Oramai arrivati alla fine di questo podcast sull'anno internazionale dell'astronomia e siamo anche arrivati alla fine di tutto un anno che ha visto Galileo come protagonista, celebrato come uno dei maggiori scienziati che la storia della scienza ha avuto. Un anno questo pieno di iniziative, pieno di eventi, vari gruppi sono stati coinvolti, varie mostre sono state fatte, varie conferenze sono state dedicate alla figura di Galileo. Si poteva fare di più in quest'anno oppure è stato fatto il massimo possibile? Detto meglio, è un'occasione da ripetere oppure è un'occasione mancata? Tra 400 anni sarebbe nettamente favorevole a ripeterlo. Certamente le cose evolvono e quindi diciamo non sarà una ripetizione esatta di queste celebrazioni. A me sembra che la cosa importante sia quella: avremo 400 anni da adesso qualcosa di uguale importanza da celebrare? Avremo nel frattempo, fra adesso 400 anni nel futuro, scoperto delle cose altrettanto importanti? Beh, l'Accademia Americana delle Scienze ha confrontato effettivamente l'epoca attuale con quella di Galileo. E questa, diciamo, è la cosa importante, cioè che si veda che oggi l'astronomia è solamente vivace, importante nella mente delle persone. E direi che un'altra cosa molto importante è che non fermarsi qui adesso. Insomma, fuori una gran quantità di interrogativi, così come certamente Galileo le aveva lasciate a noi. Professor Pacini, intanto la ringrazio per aver partecipato a Calcio Fotone nonostante questa terribile raucedine che la attanaglia. Saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Calcio Fotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie professor Pacini. Grazie a lei.